Ogni notte io ti penso e mi ricordo che in tutti i sogni tu mi capiti e non so il perché. Vorrei andare avanti ma senza te è difficile. Se ti dedico ai miei testi è perché sei irraggiungibile. Ogni notte io ti penso e mi ricordo che in tutti i sogni tu mi capiti e non so il perché. Vorrei andare avanti ma senza te è difficile. Se ti dedico ai miei testi è perché sei irraggiungibile. Ho provato ad innamorarmi un'altra volta, poi ho ricominciato a cercare lei senza nessuna svolta. Non questa volta, non senza la giornata storta per me rimorta, ma questa volta voglio stare solo, senza dire ho sbagliato, scusa, mi perdono. Voglio stare solo e ci starò. Per amore sono diventato a volte dislessico, quando il cuore batte ad ogni suo sorriso, quando pensi a quell'attimo preciso, quando mi faccio mille domande e non capisco, quando ad ogni attacco piango ma non reagisco. È quasi passato un anno e non ci sei, con la mente che viaggia lontano e non capisco i miei. Non ci starai, non lo vorrei, voglio stare con i miei fantasmi e ricordarti com'eri. Ogni notte io ti penso e mi ricordo che in tutti i sogni tu mi capiti e non so il perché. Vorrei andare avanti ma senza te è difficile. Se ti dedico ai miei testi è perché sei irraggiungibile. Ogni notte io ti penso e mi ricordo che in tutti i sogni tu mi capiti e non so il perché. Vorrei andare avanti ma senza te è difficile. Se ti dedico ai miei testi è perché sei irraggiungibile. Ciao fra, come stai? È un po' di tempo che non scrivo, che non mi attivo e che resto recidivo. Scappo da una realtà piena di problemi, cambio le carte in tavola, cambio gli schemi. Vorrei parlarti di una lei che è entrata nel mio cuore, l'unica mia cura, l'unica soluzione. Ricordo che tu mi chiedevi cosa io provavo, per farle nella pancia ma quasi mi odiavo. Eri la più bella, eri fantastica, anche se in vari atteggiamenti eri un po' fanatica. Timida come un fiore che sape sbocciare, ora posso solo ringraziarti per ciò che mi hai fatto fare. Mi dici che stai bene e poi mi lasci solo, le tue ultime parole amore sogni d'oro. Mi risveglio e trovo solamente quel biglietto, credi in te stesso, sai che rimango dentro. Ci sto credendo, lo sto facendo, lo faccio per te ma anche per me stesso. Ogni mio testo sai che non si può spiegare, ora come ora se sei andata non puoi più tornare. Non voglio dilungarmi, ormai sei tutto quello che abbiamo costruito, io di certo non lo butto. Ti saluto, ti abbraccio, mi dispiace solo non averti dato l'ultimo bacio. Ogni notte io ti penso e mi ricordo che in tutti i sogni tu mi capiti e non so il perché. Vorrei andare avanti ma senza te è difficile. Se ti dedico ai miei testi è perché sei irraggiungibile. Ogni notte io ti penso e mi ricordo che in tutti i sogni tu mi capiti e non so il perché. Vorrei andare avanti ma senza te è difficile. Se ti dedico ai miei testi è perché sei irraggiungibile.